Mix 24 di Giovanni Minoli. Io non attacco la Germania, non l'attaccherò mai. Quando si tende a far credere che la Germania sia il donatore di sangue dell'Europa, agli occhi esterni non appare propriamente così. La tenuta di Schengen vacilla. Travolta dall'arrivo di flussi enormi di migranti, è a rischio la libera circolazione di persone e merci all'interno dei paesi europei che in passato hanno aderito al trattato. E mentre il ministro Angelino Alfano ha rassicurato, per ora Schengen è salvo, il suo omologo austriaco Johanna Mikl-Leitner ha lanciato l'allarme. Il trattato sta per saltare. Venerdì Matteo Renzi incontrerà Angela Merkel ed è prevedibile che entrambi avranno interesse a proclamare il ritorno del bel tempo. Entrambi sconteranno il fatto che l'Italia non ha più una politica tedesca da molti anni. Le cifre dell'economia ci dicono che Merkel e Renzi avrebbero molti buoni motivi per mettersi d'accordo. Non sarà impossibile ricomporre anche divergenze importanti come quella sui salvataggi delle banche. Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera, storico, ambasciatore romano. Siamo alla vigilia dell'incontro di Berlino tra Angela Merkel e Matteo Renzi. Lei ha scritto un libro, Storia del debito da Bismarck alla Merkel. La Merkel ha dimenticato quella storia? No, la Merkel suppongo che la ricordi abbastanza bene. Immagino che non abbia certamente dimenticato che nel 1953 a Londra ci fu un trattato che condonò, per così dire, metà del debito che la Germania appunto aveva contratto a partire dalla Grande Guerra. Ecco, ma nel suo libro Keynes invita a non accanirsi contro i paesi creditori, come appunto è stato con la Germania sconfitta. E sarebbe quella la strada da seguire oggi per la Merkel? Eh? Sarebbe quella la strada, indubbiamente. Ma vi è un problema che rende la situazione alquanto diversa da quella del passato. Prima di tutto nel 1953 la Germania fu condonato al debito perché stava scoppiando o era scoppiata la guerra fredda. Pensavamo di avere un nemico potenziale e pensavamo che l'Europa non avrebbe potuto fare fronte al nemico senza la Germania. Adesso la guerra fredda non c'è più e per di più c'è un'Unione Europea in cui le certe regole dovrebbero valere per tutti. Ecco. Allora, i tedeschi dicono perché dovrebbero valere per noi e non per altri. Sì, lei però invita la Merkel a una maggiore condivisione dei rischi per trovare una soluzione all'integrazione europea, cioè bisogna rinunciare un po' all'Europa germanizzata per poterla tenere in piedi, o no? Tipo di osservazione, però attenzione, i tedeschi rispondono sì, siamo perfettamente d'accordo, bisogna a un certo punto avere una gestione più collegiale dei nostri problemi, dei nostri guai, però dicono i tedeschi, se questo comporta una modifica dei nostri rapporti fondamentali, noi dobbiamo in qualche modo rinunciare tutti alla sovranità, a una parte di sovranità nazionale. Certo. Tra l'altro perché il Parlamento tedesco ci dà tutto purché esista questo sacrificio collettivo di sovranità nazionale. Cioè purché la Germania riesca a continuare a controllare, diciamo, tradotto in parole semplici. Devo dire che poi la capacità e l'autorità e il diritto di controllare dipende anche dalla propria serietà. Se certo. I tedeschi continueranno ad essere seri, avranno anche il diritto di avere una sedia più grande. Certo. Ecco, il premier italiano Renzi adesso ha deciso di alzare i toni, andare allo scontro, così sembra, con Berlino. È una posizione tattica, secondo lei, è negoziale o c'è qualcosa di più? Credo che ci sia molto di preelettorale. Il grosso problema italiano in questo momento per chiunque cerchi di governare dal centro-sinistra è naturalmente la prospettiva di un maggiore voto populista alle prossime elezioni. Certo. E beh, Renzi sta rubando i panni al populismo. Sta cercando di prendere voti a Salvini, insomma, sostanzialmente, con questa posizione e anche naturalmente Forza Italia. Ecco, ma in una trattativa come quella di domani, comunque con la Merkel, è meglio puntare tutto su un unico obiettivo, come per esempio la Bad Bank, oppure è meglio diversificare obiettivi? No, io credo che all'incontro invece si dovrebbe volare un po' più alto, perché bisognerebbe cercare di ricostituire con la Germania un rapporto che certi momenti c'è stato. La Germania apprezzava il rapporto con l'Italia perché in qualche modo la rendeva meno dipendente dal rapporto con la Francia. Per di più la Francia in questo momento non attraversa una fase particolarmente buona. Di noi, come i tedeschi, hanno bisogno, però bisognerebbe che noi offrissimo ai tedeschi un rapporto coerente, leale, voglio dire. E che cosa in concreto? Lei dice ci vuole, l'ha detto prima, un po' di fantasia. Ecco, ma quale fantasia? Ma vede, torniamo al discorso condonare il debito. Certo. Si può anche condonare il debito italiano, però bisogna che il condono avvenga in una fase in cui l'Italia dà la dimostrazione di essere pronta ad attaccare il proprio grande debito pubblico, il proprio grande debito pubblico, che non può essere semplicemente condonato, con degli strumenti credibili. E non è credibile quando smette di cercare di diminuire la spesa pubblica accantonando quell'autorità che pure a un certo punto aveva creato attese favorevoli in Europa. Certo. Ecco, la diplomazia e la burocrazia tedesca a Bruxelles sembrano molto concentrate sui dossier europei, molto concentrate, molto di più e molto meglio di quelle italiane, è così? È certamente così, e non vale soltanto per la Germania questo discorso positivo, vale anche per la Francia. Voglio dire, i paesi che hanno preso sul serio l'Europa sono i paesi che hanno creato un rapporto organico fra ciò che accadeva a Bruxelles e ciò che accadeva nel loro paese. Noi cosa abbiamo? Un difetto di formazione nella nostra diplomazia e nei nostri funzionari di Bruxelles? Sì, probabilmente. La mia impressione è che questo difetto sia dovuto soprattutto al fatto di un certo provincialismo politico italiano. Voglio dire, ci guardiamo continuamente l'uno l'ombelico, con l'altro. L'ombelico, sì. E soprattutto siamo convinti che la carriera si faccia a Roma. Esatto. E allora mandare qualcuno a Bruxelles è come mandarlo lontano. Esattamente. Ecco, ma però in questo rapporto fra l'Italia e Bruxelles, adesso Renzi sembra insoddisfatto del lavoro della Mogherini che ha voluto con grande forza. Secondo lei ha ragione? Ma era evidente che la Mogherini, molto più di quello che faceva la signora inglese che l'ha preceduta, non avrebbe potuto fare. Tutti sanno che in questa particolare fase i paesi membri dell'Unione Europea non sono disposti a rinunciare alla loro sovranità nazionale. Ciascuno di loro ha un partito o più partiti all'interno che soffrono di un nazionalismo vittimista, che continuano a vedere minacce all'identità nazionale, alla nostra cultura. E allora, voglio dire, a un certo punto la politica estera dell'Unione Europea fa fatica a uscire. Certo, ecco, ma aver sostituito un ambasciatore di carriera come Stefano Sannino con un politico, Carlo Calenda, secondo lei può essere una mossa, è una mossa senza precedenti, ma può essere azzeccata? Ma qualche precedente c'è. Io non sono stato critico di quella mossa, perché ho l'impressione che se in questo particolare momento, che non è un momento semplice nei rapporti fra l'Italia e l'Unione Europea, c'è qualcuno a Bruxelles che è percepito come un amico del Presidente del Consiglio, qualcuno che certamente riferisce al Presidente del Consiglio autorevolmente. C'è la possibilità di rendere più fluidi i rapporti, insomma. Assolutamente, e di coinvolgere maggiormente il Presidente del Consiglio. Ecco, ma il Trattato di Maastricht è da riscrivere? Il Trattato di Maastricht probabilmente sì, e alcune cose del Trattato di Maastricht, come diceva Romano Prodi, sono persino stupide. Sì. A un certo punto lo disse e non aveva torto. Ma attenzione a puntare troppo alto e a rifare i trattati in questo momento. Si corre il rischio di rifarli nel senso peggiore, perché nel momento in cui si deve correggere arrivano quelli che vorrebbero correggerlo al peggio. Al ribasso, certo. Ecco, ambasciatore Romano, ma Schengen, che di fatto è moribondo, segna la fine dell'Europa o no? Spero di no. Di questa Europa, diciamo. Spero di no. Sono tuttavia preoccupato dal fatto che non si vuole affrontare il problema Schengen dall'unico dei lati possibili positivi, vale a dire il problema fondamentalmente è quello di rinforzare la frontiera esterna. Certo. voglio dire, mentre continuiamo a parlare di... della circolazione interna. Di rafforzare i controlli della circolazione interna, che è esattamente ciò che l'Europa non dovrebbe non mai dovrebbe fare. Ecco, un'ultima cosa, ambasciatore Romano, il futuro politico di Renzi si gioca in Italia o nel confronto con l'Europa? Gioca certamente in Italia, perché è in Italia che si vota per no lui, naturalmente, ma capisce bene cosa volevo dire. Ma io sì che lo capisco, e credo che nella domanda c'è anche la risposta. Renzi dovrebbe avere interesse ad avere una statura europea, e una statura europea si conquista a Bruxelles, e guardi che la Merkel stava per dargliela questa statura. Sì, sì, fin da prima, da quando era ancora sindaco, diciamo. Assolutamente, lei l'aveva in qualche modo scelto come interlocutore. Ecco, Berlusconi, perché le ho fatto quella domanda, perché Berlusconi in realtà ha perso Palazzo Chigi, fra le tante cose, proprio scontrandosi con Germania e Francia. Beh, certamente quel sorriso terribile non l'abbiamo dimenticato. Grazie ambasciatore. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. E adesso entriamo dentro la notizia. Mix 24, dentro la notizia. Allora Mario, professor Romano, come sempre lucidissimo, sì. Ma a questo vertice secondo te come si arriva, in due parole? Ma con molta tensione, come si è visto nei giorni scorsi, molte parole, però i tedeschi hanno preparato un dossierone che Renzi deve essere altrettanto preparato. Se vuole uscirne con le ossa tutte intere, perché poi sai, alla fine c'è gli aiuti di Stato all'Ilva, il dossier dell'unione bancaria, il funzionamento delle bad bank a cui la borsa, abbiamo visto ieri, non crede. E ha ragione, perché c'è solo un accordo politico, sarebbe da scrivere, ma le cose che ha detto il tesoro non convincono. L'immigrazione con la nostra frontiera sud, insomma, tutti quei il Brexit, gli aiuti alla Turchia per 300 milioni, la flessibilità di bilancio. E, insomma, non c'è un solo dossier in cui in questo momento non ci sia una divergenza con i tedeschi. Aggiungo che le note diplomatiche ufficiali, non le chiacchiere, di cui quelle di cui hai parlato nei giorni scorsi, di cui ho le copie, ovviamente, dicono che il 13 gennaio scorso la Germania ha detto no a tutte le nostre proposte di unione bancaria. Questo è il punto chiave della faccenda. Quindi, una trattativa complicata, molto complicata. Secondo te Pietrangelo è uno scontro tra Mediterraneo e Nord Europa, oppure tecnocrazia e popolo? Secondo me è la fatica immane di fare l'Europa a prescindere, e quindi anche il Mediterraneo, e quindi a prescindere dai popoli, perché per esempio il capolavoro di unità della Germania dopo la separazione voluta dai vincitori della Seconda Guerra Mondiale non è riuscita poi a far seguire l'aggregazione continentale. Cioè è un concetto che i tedeschi conoscono bene, è sempre la marcia verso est, è il saldarsi all'origine di un'Europa che non può essere una concessione atlantica, deve guardare, diciamolo, alla Russia, perché l'Aquila, sia a Berlino sia a Mosca, ha sempre avuto due teste. Ecco, Tobias Piller è corrispondente della Frankfurter Allgemeine Zeitung, buongiorno. Ha scritto sul suo giornale un articolo che racconta un po' l'Italia in preparazione di questo incontro di domani. L'Italia è stato giudicato molto duro questo. Qual è il punto dell'articolo? No, guardi, scrivo vari articoli ogni giorno. Sì, lo so, ma nella preparazione. L'articolo sulla sul vertice uscirà domani, l'editoriale. Nel mosaico di luce e ombre, che sono gli articoli di un corrispondente, è uscito un articolo sui tanti amici di Renzi, ma senza grande cattiveria. Ecco, ma in genere la stampa straniera su questi particolari, Bancatori, Carrai, eccetera, un po' non ricama. Invece sembra che ci sia un inizio di presa di distanza da Renzi. È così oppure ho capito male? No, non lo vedo. Renzi nazionalista, Renzi populista, Renzi anti-europea, certamente sarebbe qualcosa di nuovo. Renzi comunque, che ha fatto un po' di riforme e vuole andare avanti, è una cosa apprezzata. Quindi il Renzi che fa le riforme oggi è ancora l'interlocutore della Germania? Non c'è altro. Ma che cos'è che non convince allora? In fondo l'Italia gli ha fatti i sacrifici. C'è uno spirito nuovo, un giovane che ha vinto le elezioni europee e si presenta con uno spirito costruttivo, sbaglio? Ci sono tanti italiani che dicono da 20 anni l'Italia non cresce, bisogna metterlo a punto. Mi sembra che Renzi ha appena cominciato a muovere un pochino qualcosa e c'è ancora una strada davanti, lo dice lo stesso Renzi anche, certo, in un'intervista che ha dato al mio collega del mio giornale, il collega che segue politica del Vaticano, e dice voglio ancora fare andare avanti con delle riforme. Quello che non convince è se su questa strada poi si fanno delle piccole cosette populiste. No, abolire la tassa sugli immobili, trovare 1000 piccoli pozzi, dare 500 euro a chi diventa 18 per spendere in libri o in CD. Queste cose non vengono viste come una grande idea strutturale. Senta, no? La Germania non vuole il Fondo Unico Europeo per i salvataggi bancari, non si fida, ma le sue banche hanno avuto problemi e le garanzie del governo tedesco sono servite a raddrizzarle. Perché questo non può essere fatto oggi anche dall'Italia? Perché tutti hanno sempre le stesse regole, così. Nel 2011 tutti dicevano mettete più soldi possibile per salvare non solo le vostre banche ma il sistema bancario europeo. Dopodiché c'è stato grande malumore anche in questa trasmissione dicendo così le banche sono sempre salvate con i soldi dello Stato. Allora si è detto dal 2013 facciamo l'unione bancaria ma facciamo così che si dividono le sorti delle banche dai Stati. Allora se si vuole dividere questo... Sì, ma dopo averle salvate, però in Germania si è fatto dopo averle salvate. Assolutamente, ma la Germania poteva anche dire noi prendiamo 10 punti del PIL di debito in più per salvare le nostre banche. L'Italia in questa situazione lì aveva questa difficoltà che già il mercato non si fidava del debito italiano e Monti temeva di avere davanti a sé una storia greca. Ecco, allora ma lei non poteva aumentare il debito di granché per salvare le banche. Miller, lei pensa che sia meglio un'Italia a due velocità a questo punto con 2 euro oppure no? Abbiamo fatto accordi molto diversi sull'unione monetaria. Questo è chiaro, così se oggi si dice così tutti i trattati che non ci piacciono li vogliamo riscrivere e i vecchi buttiamo. No, ma le chiedo, perché... lei pensa che che sarebbe meglio avere 2 euro? Io penso che l'Italia può essere il paese più ricco dell'Europa se diventa competitiva nel mercato mondiale. Ma non con soldi pubblici, non con debito in più, ma con di nuovo una nuova spinta imprenditoriale di cui ha fatto vedere l'Italia quanto sa fare. Senta. Ma in questa situazione è il meglio per tutta l'Europa. Altre situazioni sono un'Italia in declino e un'Europa in declino e mi sembra che non sia augurabile. Senta, la leadership della Merkel è solidissima oppure è in crisi dopo i problemi sull'immigrazione stop and go? La Merkel sa che deve fare tante cose per solo smorzare i problemi dell'immigrazione perché non ci sono parole magiche che possono risolvere il problema. Sì, ma la sua leadership è sempre fortissima. Lei è contestata, ma non, al momento nessuno vede alternative. Senta, mi fa una previsione, per chiudere una previsione sul vertice di domani? Secondo me non si parla di piccoli dossier dell'Ilva e di tante altre cose in prima linea, si parla di grandi strategie, di cosa fare per tenere insieme l'Europa di fronte nella sfida dell'immigrazione, della migrazione del mondo. Senta, ma è vero che nell'establishment tedesco si comincia a auspicare un impegno di Draghi a Palazzo Chigi oppure sono solo così chiacchiere? Io leggo tante cose fantasiose sulla Germania che sono banalmente inventate. Posso dire forse che quando si dice ma la Germania e la Francia non devono comandare certamente in quello ha ragione Renzi. Dall'altro lato i tedeschi, i francesi si vedono tante volte già prima dei vertici dei ufficiali, ma quello che diceva Romano. Avere un italiano a un convegno a Berlino, così prima dirà non ho tempo, non lo so, e poi due ore prima del convegno chiamerà e sì, dice ma mi ha, no, grazie, senta, no? Un'ultimissima, però non mi ha risposto. Di Draghi si parla o no? Non ne ha mai sentito parlare. No. Mai sentito parlarne con gente seria che deve saperlo. Grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, gli sms. Insomma, Piller mi è sembrato più disponibile del solito. Sì, però attendista, diciamo. Sì, vabbè, perché giustamente c'è sempre questa cosa, i tedeschi sono molto precisi prima di preparare e poi quando fanno i vertici, anche i loro giornalisti d'altronde. Però secondo me non ci sarà nulla di casuale, vedrai, nelle cose che farà soprattutto anche la Merkel, perché secondo me i tedeschi hanno intenzione di impegnarci, ma contemporaneamente di non cedere. Sai, tecnicamente si chiama lo sbracco, ecco. Questo è il punto. Senti, vero, tu Pietrangelo conosci lo spirito tedesco, in realtà la cancelliera ti convince o no? In realtà sì, mi sta convincendo, anche perché sta vivendo una fase storica delicata. Bravo. Ricordiamo il caso Volkswagen, non è che qui andiamo a cercare le farfalle sotto l'arco di Tito, come diceva la buonanima. Sappiamo perfettamente che la Germania subisce in questo periodo un attacco violento da parte degli Stati Uniti e quindi la cancelliera sta adoperandosi adesso per tenere il punto, perché la marcia è sempre verso Oriente. Appunto, è quello che dicevi. Professore, abbiamo con noi il professor Savona, economista, ex presidente del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Buongiorno, professore. Buongiorno. Buongiorno. Senta, siamo appunto alla vigilia di questo benedetto incontro tra Merkel e Renzi. Lei fa una sua previsione? Ma previsioni sui risultati, ovviamente. Certo, ovviamente. Gli atteggiamenti saranno molto cortesi. La sostanza? Nessuno si può permettere delle rotture. La sostanza, niente. Niente. Ma cosa dovrebbe esserci, allora, mettiamolo in un altro modo, nell'agenda del Premier, secondo lei? Ma nell'agenda del Premier, se direi, dovrebbe insistere sul fatto che le condizioni alle quali l'Europa funziona nelle varie istituzioni debbono essere ridefinite. Lo si vuole con un nuovo trattato o con una nuova interpretazione? Io penso che dovrebbero parlare di questo. Questo è l'argomento vero. Perché, insomma, quando gli ebrei si spostavano dall'Egitto alla terra promessa e già credevano nel loro Dio, a un certo punto si sono messi ad adorare il vitello d'oro e Mosè è tornato con le tavole della legge. E oggi il vitello d'oro è il concetto dell'intervento dello Stato che altera le condizioni del mercato. Ma quale mercato? Se a un certo punto la mobilità del lavoro non è consentita, o addirittura, ma qua ci sono già i precedenti accordi che imponevano l'applicazione del contratto di lavoro del paese dove uno si trovava. I movimenti di capitali, lo sappiamo, funzionano, Keynes ci ha fatto dei trattati, vanno a finire nei paesi che stanno bene e fuggono dai paesi che stanno male. Certo. Quindi il capitale e il lavoro non si indirizzano verso l'obiettivo principale, che è quello di ritornare sul sentiero della crescita, che è uno dei pochi modi per risolvere sia gli equilibri delle banche che la disoccupazione. Ecco, ma gli equilibri delle banche, dice bene professore, ma la Germania le ha messe in sicurezza le banche, noi no, quando si poteva fare, errori, perché? Minoli, sono gli errori che abbiamo denunciato, che lei ha denunciato e che io ho denunciato con un certo logorio, a dire anche personale, almeno per quanto mi riguarda, ma soprattutto con il logorio del paese. Certo. Dobbiamo pensare al futuro. Io credo, ho già detto anche proprio con lei, che io considero la Merkel più intelligente del suo elettorato, però deve tenerne conto del suo elettorato. Quindi non hanno interesse a rompere, capiscono che la situazione non funziona bene, devono trovare il modo per cercare di farla funzionare. Ecco, ma professore, altrimenti si spacca l'Europa. Ecco, ma professore, nelle banche italiane c'è molta spazzatura oppure no? Cioè, bisogna fidarsi oppure no? Guardi, a un certo punto, credo, intanto forse la stupirò, bisogna ringraziare Padoan per ciò che ha fatto, perché lui doveva contrastare il vitello d'oro dell'intervento dello Stato. Quindi mandiamogli almeno ogni volta tanto un elogio. Certo. Il discorso è, ancora una volta, l'Europa riconosce l'esistenza del problema, ma ne risolve la metà, il che significa non risolverlo. Senta, professore, si parla tanto del vincolo esterno. Che differenza c'è tra il vincolo esterno, che era quello invocato da Carli in qualche modo, e il vincolo di mercato, cioè il vincolo da trattato? Beh, proprio in questi giorni ho ritirato fuori una memoria che avevo scritto per il centenario della nascita di Carli, quindi nel 2014. Per questo glielo chiedo. In cui io mi continuavo a domandare, io ho, devo dire, un grande stima e un grande debito nei confronti del mio maestro Guido Carli, e mi domandavo, ma perché a un certo punto ha accettato il vincolo esterno più forte? E mi sono accorto che il problema è che lui aveva cambiato, non aveva capito, perché c'era il vincolo esterno nel dopoguerra, quello dell'adesione al Fondo Monetario, all'accordo di Bretton Woods e le altre istituzioni occidentali, era un vincolo di mercato, era il mercato che mandava i messaggi: state andando bene, state andando male, con il rapporto di cambio e con i tassi dell'interesse. Adesso, firmando l'accordo del 1922, noi abbiamo trasferito il vincolo esterno dal mercato a una burocrazia organizzata. Ecco, ma che cosa voleva dire appunto Carli quando diceva accetto la corda al collo del vincolo esterno ma tengo ferma la mano sul nodo? È un gioco di equilibrismo mica male. Beh, no, è nel senso che si negoziava di volta in volta come nasceva un problema, che era la logica di Bretton Woods che aveva suggerito Keynes. Cioè, se c'era un problema del cambio, tu andavi a Washington, io ho partecipato ad alcune trattative personalmente di questo tipo, e decidevi se svalutare, se invece aggiustare la domanda, o qual era il tipo di finanziamento che ti proveniva dal Fondo Monetario Internazionale. Quello era un meccanismo serio. Ma lo schema che è stato concordato, la soluzione che il Tesoro ha concordato con l'Europa per la Bad Bank, è una soluzione che ha, come dire, buona, che ha una sua positività, mi sembra. Ha una sua positività perché ha mandato il messaggio che sia l'Europa, perché io ho rivolto l'elogio a Padoan. Ma sia l'Europa che l'Italia hanno preso coscienza che c'è un problema da affrontare. Però la soluzione tecnica che è stata data per rispettare il vitello d'oro della proibizione dell'intervento dello Stato, ma qual è il problema? Il problema che cos'è? La protezione di un mercato che non funziona? O direi il tentativo di sistemare, di riportare le banche italiane ad essere strumento fondamentale, soprattutto per l'Italia, per la ripresa dello sviluppo. Prego. E finché le banche non hanno risolto questo problema, e alcune già l'hanno risolto, perché apprendiamo dalle informazioni che delle sofferenze di 200 miliardi ne rimangono solo 90 non ammortizzate. Certo. Ma facciamoci poi i calcoli. Se le banche hanno fatto gravare sui profitti 120 miliardi di accantonamenti, significa che lo Stato ha incassato 60 miliardi in meno, che sono 4 punti di PIL. Vogliamo analizzare anche questo aspetto? Allora anche quello, il gravare far gravare le sofferenze sugli utili delle banche potrebbe essere l'equivalente di un intervento dello Stato. Potrebbe stimolare anche la speculazione internazionale per spingerla a puntare sull'Italia per far cadere Renzi? Ma certo, le forze contrarie ci sono sempre. No, beh, siamo allo scontro. In principio ai complotti. No, ma siamo allo scontro fra un uomo solo, Soros, e un paese, la Cina. Dico, quindi la mobilità delle intenzioni delle speculazioni è molto, molto forte. Io non credo che a un certo punto la Cina possa, come era successo per l'Italia e per l'Inghilterra, lei lo ricorderà, sia in grado di fronteggiare un paese che ha in mano tutti gli strumenti di intervento più una quantità di riserve ufficiali enorme. Quindi io non credo che ci sia un serio rischio. Ecco, un'ultima cosa, professore, la ringrazio. Secondo lei sarebbe opportuno prendere atto che comunque l'Europa è spaccato in due, servono due monete, cioè una doppia velocità, o ci sono delle altre soluzioni di fantasia, come diceva il professor Romano? La spaccatura in due non funziona, la spaccatura in due significa quindi due spaccatura monete, no. dell'accordo, non quindi è possibile no. assolutamente. Infatti io ritengo e insisto sul fatto che si è creato un meccanismo tale per cui, non essendo nessuno direttamente responsabile del passivo della Banca Centrale Europea, ho già equiparato la Banca Centrale Europea a quella che erano gli istituti di emissione in Italia, Banco Napoli, Banco sì. di Sicilia. Quindi noi siamo costretti a trovare una soluzione affinché il meccanismo funzioni. D'altronde ne abbiamo interesse. Certo. Se non facciamo niente, allora si spacca. Si spacca e allora addio. Grazie professore. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, gli SMS, insomma analisi di alto profilo, però viene fuori che la guida tedesca dell'Europa non è in discussione, secondo me viene fuori questo. Mi viene in mente anche che leggere Keynes di questi tempi, soprattutto non tanto non solo nelle analisi economiche ma in quelle politiche, è molto utile. Cioè le conseguenze economiche della pace, secondo certo. me è un libro fondamentale da rileggere in questi, tempi strani, diciamo. Pietrangelo, per chiudere, sì. Mario ha toccato le due guerre, ecco, qual è la differenza tra la Berlino di ieri e quella di oggi sul piano culturale? Sul piano culturale? Sul piano della società, sul piano perfino delle atmosfere. Allora, chiunque si avventuri e studi per esempio la Berlino degli anni 30 e la confronti con quella di oggi, sai una cosa? Non c'è differenza. Città punk era negli anni 30, città punk è rimasta oggi. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, SMS, pubblicità. Mix 24. Pietrangelo, qual è la canzone oggi? Arriva. Everybody needs a prayer and needs a friend. Everybody knows the world's about to end. Everybody wants to know what the end will be. Everybody wants to look before they leave. Everybody wants a sip of wine to drink. Everybody wants a little more time to think. Tutti sanno che tutto sta per finire, tutti però cercano il finale, tutti hanno una bugia impossibile da trattenere, tutti hanno bisogno di una preghiera e tutti di un amico, e tutti vogliono vedere le acque negli occhi di tutti. Anche Don Rodrigo, guardando negli occhi di Lucia, ha potuto vedere dove le acque vanno a condurre l'amore, che poi riduce tutto in frantumi. Ha telefonato Don Rodrigo stamattina e l'ha dedicato a lei, a Lucia. Finita l'era di Valentina. È finita l'era di Valentina. Valentina è stata segata. Cioè, via, fuori, anno nuovo, posso Valentina dire, nuova. Posso dire? È dedicato a Valentina. Va bene. No, perché Valentina stava telefonando. Cioè, senti, i piedi in 20 scarpe. Bolla? Ragazzo. Bolla, Mario? Sì. Per niente facili, uomini così poco allineati, li puoi chiamare i numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati. Pezzo straordinario di un grande cantautore italiano, un vero poeta, Ivano Fossati, questo sì. È un pezzo bellissimo da ascoltare, senti ancora un paio di parole. Le strade di ieri, se non saranno rientrati, sarà possibile sì. Ogni tanto andiamo, in aereo si incontra qualcuno o qualcuna. Pietrangelo molte, beato lui, io zero ormai, ma non fa niente perché io non prendo l'aereo, tu non prendi l'aereo, ciccia a tutti, pace dei sensi per noi, no, in realtà questo no, però guardiamo invece con grande interesse e grande passione quello che sta facendo l'Europa. Dovrebbe uscire oggi, dicono, vediamo un po', una direttiva europea su quelli che diciamo fanno i furbetti, per modo di dire, sui loro profitti. parlo delle multinazionali, dovrebbe essere un provvedimento appunto che evita finalmente i casi Google, Apple, insomma, che riguardano moltissime quelli multinazionali. Che piacciono a te, sì. No, dai, adesso. Tutte, la concorrenza fiscale è importante. Il problema è che non si può fare in un mercato che vuole essere unico. Vabbè, insomma, come l'Europa. È meglio che paghino le tasse. Probabilmente nel secondo semestre tireranno fuori un progetto per una corporate tax unica europea. E sarebbe il momento. Al 30%. Secondo me è auspicabile. Poi, sai, sarebbe una grande conquista. La realtà è cercare di capire che cosa faranno l'Irlanda, le lobby a Bruxelles, il Regno Unito, dove le tasse sono molto basse, ci sono condizioni molto vantaggiose e attraggono i capitali. Posso citare il mio amico Giorgio Gandola, che è il direttore dell'Eco di Bergamo, che mi ha mandato un messaggio, ha detto, citando Keynes, nel lungo periodo siamo tutti morti, quindi facciamo in fretta, per favore. Salamino. Andar per boschi, naturalisti, ecologisti, cercatori di funghi, cacciatori, reprottisti, vanno tutti per boschi. Andiamo a lavorare. Anche i giornalisti vanno per boschi, e quando due giornalisti del Fatto Quotidiano, cioè Antonio Massari e Valeria Pacelli, vanno all'anagrafe per cercare boschi, vengono fermati, trattati peggio che bracconieri. Insomma, finisce che tutti gli stati di famiglia di tutti sono accessibili, mentre invece tutti gli stati di famiglia di tutti sono accessibili. Per esempio quello di Gianfranco Fini, ve lo ricordate, no? Parlandone da vivo di Gianfranco Fini, quando si scoprì che era nello stato di famiglia del cognato Tulliani. Anche quello di Matteo Renzi è risultato accessibile. Quello della soave, bella, incantevole, tosta Maria Elena Boschi, no. È stato ordinato il segreto di Stato. I due cronisti sono andati al comune di Laterina, ad Arezzo, provincia di Arezzo. Volevano capire chi fosse tal Francesco Boschi, perché tra le indiscrezioni divulgate da Aldo Giannulli, storico dei servizi segreti e delle misteriose vicende, si segnala tal Francesco Boschi. Niente, non gliel'hanno voluto dare. Hanno chiamato Agrigento e gli hanno dato quello di Angelino Alfano. A Firenze, come vi ho detto, gli hanno dato quello di Renzi. Hanno chiesto quindi di andare per altri boschi. Hanno chiesto, dice, ma ce lo date quello di Pierluigi Boschi? E hanno detto lì al comune, hanno detto, ve lo dico con una canzone. Dai, no, quale? No, dai, e basta. Scusa. E che censura? Censura, ristabiliamo censura. Il principio d'autorità. Sì. Censura in diretta. Siamo basta stati con censurati. Questa canzone. Censura. Censura. Sì. E mi metto il bavaglio. Però fammela sentire. Dai. No, ma è censura. Non me la ricordo. Ma no, censurato. Basta. Andiamo avanti allora. E allora? Però non sei arrabbiato. L'altra bolla, va? Il fetido cortile ricomincia a miagolare. L'umore quello tipico del sabato invernale. La radio mi pugnala con il festival dei fiori. Un angelo al citofono mi dice un'altra pezzo meraviglioso di Sergio Caputo, e ci siamo perché Sanremo sta per arrivare con relative polemiche. Un sabato italiano, è stato un bellissimo album, era questo, tra l'altro. A noi piace ancora Sergio Caputo, ovvero Pietrangelo. Insomma, quindi tu mi dirai perché l'hai usata? Boh, così, perché stamattina mi andava. In realtà vi voglio parlare di Oriente. Tonio ci dice una cosa giusta: una grande perdita per l'Europa potrebbe avere l'Unione se dovesse cadere l'Erasmus. Ha ragione, perché è l'unica iniziativa che ha cominciato a costruire il cittadino europeo. No, scusa, ti fermavo, ma perché? Sono, era un'osservazione. Sono convinto anch'io. È una questione di libertà e cultura. Ammesso che interessa ancora dicevi, qualcuno la cultura. Interessa. Del mercato dei telefonini, perché insomma, non ci rendiamo conto di che cosa è successo. Sono usciti i dati di vendita del 2015, sono molto interessanti. 1,5 miliardi di pezzi sono stati venduti l'anno scorso. Al primo posto c'è Samsung con 320 milioni di pezzi, al secondo c'è Apple con 231 milioni. Poi ci sono altri marchi che fanno cifre importanti come Huawei, 107 milioni, Lenovo, Motorola, Xiaomi e così via. La cosa molto interessante che ti dice tutto di quello che sta succedendo nel presente e che cosa succederà nel futuro è che di fatto, tranne Apple, sono tutti marchi orientali, esatto. Ma anche sudcoreani Apple. O cinesi. Però la stessa Apple produce in Cina. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, SMS pubblicità. Mix 24. Terremoto in casa Volkswagen per il caso delle emissioni truccate negli Stati Uniti. Pressata da un'inchiesta delle autorità americane, Volkswagen ha ammesso di aver truccato per anni le centraline elettroniche di quasi mezzo milione di auto vendute negli Stati Uniti per far figurare i suoi motori meno inquinanti. Questa brutta storia corre il rischio di scalfire l'immagine dell'efficienza e dell'affidabilità della Germania. È la reputazione, infatti, a essere in gioco nello scandalo delle emissioni truccate che ha travolto Volkswagen, un modello a cui molti automobilisti hanno imparato a guardare con rispetto, almeno finora. Dunque, reputazione e rispetto messi in discussione da uno scandalo quasi incredibile per un marchio simbolo della storia tedesca. Settembre 1935, Ferdinand Porsche, un geniale costruttore, presenta al Führer il prototipo di una nuova auto, la Volkswagen, la vettura del popolo. L'entusiasmo di Hitler, il prezzo abilmente contenuto, una grandiosa macchina della propaganda, trasformano il sogno in realtà. Nel settembre del 39 il maggiolino sfreccia sulle strade del Reich. Pochi giorni dopo la guerra e gli stabilimenti Porsche prestati all'industria bellica. Poi, negli anni 50 e 60, il maggiolino diventa un mito del benessere, 20 milioni di esemplari venduti. Ferdinand Porsche, il manager di Hitler. I clamorosi successi, le sconfitte, i misteri di un patto segreto con Hitler. Oggi, qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Canzoniere! Quello di ieri. Quando lo spirito si avvicina ai gradini superiori delle sue facoltà, giunge necessariamente alla verità. Qui finisce la conoscenza e subentra la venerazione. Nicola, Nicola da Padova che aspetta da ieri. Buongiorno Nicola. Buongiorno a voi. Allora, ha avuto tempo di meditare? L'avevo scritto ieri via sì, la mail. infatti. Eliopolis di Junger. Giusto! Bravo, bravo! Che tempo fa a Padova? C'è nebbia? No, oggi no, ma foschia. Foschia. A lei che fa di bello? Architetto. L'architetto, bene, bene. Almeno ci provo. Bravo, grazie. Grazie. Grazie a voi. Mario, c'è ancora una bolla? Più che una bolla, una notizia che non ho ancora capito bene. Allora. Si è dimesso il ministro dell'economia giapponese. Giapponese? Sì, sì. Perché? Sì. Non si sa. Dice che se ne va. Ah, sì, sì, perché è corruzione. Ecco, perché, pure lì non scherzano. Il governo giapponese ha sempre un po' di problemi su questo. Ma in Giappone ci sono le banche? Ammazza. Bancone ci bancone, sono. Eh? Vabbè, e allora oggi come sempre, anche oggi come sempre, il professor Roberto Bernabei commenta le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Lancet, 13 agosto 2015. La musica come aiuto per la ripresa post-operatoria negli adulti. Abbiamo parlato già una volta del buon effetto della musica sulla salute. Qua i ricercatori sono andati a vedere cosa accade se metto sotto trattamento musicale un paziente che ha avuto un intervento chirurgico. Cosa succede nel post-intervento? Sono stati messi insieme 6.500 pazienti di 72 studi controllati ed erano pazienti che erano sottoposti da una semplice gastroscopia a trapianti di organo, cioè interventi chirurgici molto semplici o interventi molto complessi. E allora cosa succedeva? Chi aveva le cuffiette con la musica, rispetto a chi è che veniva semplicemente rassicurato a voce o con magari qualche carezza da parte degli operatori, beh, chi aveva la musica aveva meno dolore, meno ansia e utilizzava meno analgesia, con globalmente una soddisfazione aumentata dell'atto chirurgico. Curiosamente, tipo e tempi della musica non influenzavano i risultati, quindi fosse il rap o fosse Mozart, lo stesso qualche cosa fa se ci dobbiamo sottoporre a un intervento chirurgico. Sapete qual è la paura dell'anestesia, la paura dell'intervento, il dolore? Bene, la musica agisce su tutto ciò. E per finire, Gloria Guerrera, cosa ci presenta? Oggi, Giovanni, andiamo negli anni 90, una canzone scritta da Bersani e da Lucio Dalla. È un grande classico per noi che siamo stati adolescenti negli anni 90. Vabbè, alle prese con le nostre prime incapacità sentimentali. Si chiama Spacca Cuore, la canta Samuele Bersani. Spengo la TV e la farfalla appesa cade giù. Ah, succede anche a me. È uno dei miei limiti, io per un niente vado giù. Se ci penso mi dai brividi, me lo dicevi anche tu, dicevi tu. Ti ho mandata via, sento l'odore della città. Non faccio niente, resto chiuso qua. Ecco un altro dei miei limiti, io non sapevo dirti che. Solo a pensarti mi dai brividi, anche a uno stronzo come me, come me. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare. L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara, amore. Tu non pensarci più. Cosa vuoi aspettare? L'amore.